centro Foianini in Alta Valle per la reintroduzione della segale. Il piatto di Bormio e di Livigno è tagliatelle di segale con cacciagione, non viene più coltivata la segale da 30 anni e ritorneremo a coltivare la segale lì, un po' per rispondere anche, certo bisogna prendere i nostri rappresentanti istituzionali e martellarli, però ho visto che la cosa più efficace è di andare a parlare loro, non di cose che faremo, ma di quanto abbiamo fatto, di cosa stiamo facendo, e in maniera autonoma da loro. Noi per portare avanti i nostri progetti non abbiamo un soldo di finanziamento, ci siamo tirati sulle maniche e abbiamo fatto un po' come faceva la nostra gente, si è preoccupata di mantenere il proprio territorio e le proprie produzioni tradizionali. Grazie ancora.